Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, in questo giugno strano noi continuiamo ad andare in giro per l'Italia a raccontare luoghi, borghi e cammini, un modo alternativo di esplorare questa estate, il sommario. Questa settimana siamo in Puglia, a Trani, per parlare della cattedrale, un'esperienza unica che mette insieme architettura, paesaggio ed emozione. Poi torniamo in Lombardia e faremo il giro di Sarnico, borgo arancione del Touring Club. Restiamo in Lombardia per camminare sulla Via Francesca. La Puglia è sole, mare cristallino, gente aperta e accogliente e terra di grandi architetture. Questa volta abbiamo scelto, Livia Cornaggia e io, la Cattedrale di Trani, un luogo che ci è rimasto dentro. La parola alla direttrice del Museo Tattile di Varese. Questa settimana andiamo in Puglia, che è una regione meravigliosa, andiamo a Trani e parliamo della Cattedrale di San Nicola Pellegrino, che è considerata generalmente come il più bel esempio, il più rappresentativo esempio del romanico pugliese e che in più è amatissima dagli abitanti di Trani, oltre che da noi due, perché custodisce le spoglie del patrono della città. Ha un'origine molto antica perché è stata edificata a partire dal 1099, come spesso accade, come tante volte abbiamo detto, su un sito che era originariamente occupato da una cattedrale paleocristiana. È una chiesa bellissima, famosissima, bellissima e ha tutta una serie di caratteristiche architettoniche molto strane che ne fanno sostanzialmente un unicum stilistico e che la rendono, oltre che bella, molto interessante, secondo me. Per prima cosa, Valeria, la posizione, perché è, come sai, proprio sul mare e quindi è stata pensata ed è visibile, in qualche modo dominante, sia per chi la raggiungeva a piedi, quindi per i pellegrini, sia per i naviganti che la vedevano dal mare. Questa è una cosa non frequente per quanto concerne le cattedrali di grandi dimensioni, perché di solito venivano poste in posizioni un pochino più arretrate. Nel caso di San Nicola questa posizione straordinaria ottiene secondo me un effetto di duplice spettacolarità, perché appunto la vista è strepitosa se la cogli dalla piazza antistante la chiesa, ma è ovviamente altrettanto strepitosa, se non di più, anche se la guardi dal mare, anche perché San Nicola, la cattedrale di San Nicola, è completamente realizzata in pietra di Trani, che è una roccia calcarea chiarissima, e quindi tu hai questa visione di questa massa architettonica molto grande, che al sole è quasi bianca, che si staglia praticamente contro il blu dell'Adriatico, quindi una cosa meravigliosa. Livia, mi viene da pensare che sia quasi una locazione sfacciata, perché l'intorno c'è la cattedrale e il mare, non c'è quasi nient'altro, cioè nello sguardo che tu dedichi è come una cartolina, no? C'è la cattedrale e poi c'è il mare, è proprio un modo sfacciato di mostrare al mondo la bellezza di questo luogo. La bellezza di questo luogo, il respiro, perché come osservavi tu ha molto spazio intorno anche da terra e quindi salta fuori con questa bellezza e con questa imponenza, perché è una cattedrale grandissima, cosa che nelle chiese romaniche non sempre è frequente, perché è lunga 64 metri ed è alta 38, con di fianco in più questo campanile di cui poi parleremo, che è alto 59 metri. Quindi è davvero una chiesa imponente, una chiesa dominante. E ha, come dicevamo, delle cose particolari che noti subito arrivando dalle stradine strette nella sua piazza, per esempio il fatto che l'accesso sia rialzato rispetto al piano stradale. Ha davanti due rampe di scale contrapposte, una specie di ballatoio e poi un meraviglioso portone con cui si accede alla chiesa. Il fatto che sia rialzata è spiegabile sulla base della sua natura di chiesa doppia, perché in realtà la basilica vera e propria, che è sollevata di 5 metri, è lì perché poggia sopra la cripta, che è in realtà realizzata con una dimensione da chiesa vera e propria. Di solito le cripte sono molto piccoline, sono molto basse, in questo caso no. Posso dire, magari dico un'eresia, però posso dire che quasi quasi è più bella la cripta che la cattedrale sopra. Non è un'eresia, è bellissima la cripta, io ne sono innamorata ed è bella la contrapposizione tra, diciamo, chiesa superiore e chiesa inferiore, perché hanno due anime completamente diverse. E in realtà, se dobbiamo vedere l'aspetto di affezione da parte degli abitanti di Trani, è quasi più amata la cripta, perché appunto ospita le spoglie di San Nicola della vera e propria chiesa grande, insomma della chiesa superiore. Un'altra cosa strana è il transetto. Allora, il transetto è quella parte architettonica che di solito incrocia perpendicolarmente le navate di una chiesa e che simbolicamente forma una croce, per cui le chiese hanno sempre una pianta a croce. Nel caso di San Nicola, questo transetto è creato sia dal punto di vista della forma che soprattutto dal punto di vista della dimensione, in modo tale da far pensare che sia una terza chiesa a sé stante, con tre navate, più alto e più grande della facciata e quindi con una grande imponenza. E poi c'è il campanile, e il campanile è una cosa assolutamente unica, perché è stato edificato a partire da un secolo dopo la cattedrale, ma ha comunque una struttura e una natura stilistica propriamente romanica. Per esempio c'è questa cosa che era tipica del romanico, nel caso dei campanili e delle torri, di utilizzare un escamotage architettonico per il quale, aumentando la dimensione delle finestre nella parte alta, si alleggeriva sostanzialmente la struttura dal punto di vista visivo. E quindi ha questa caratteristica, ma soprattutto una caratteristica che è, Valeria, unica al mondo, cioè alla base di questo campanile, già di per sé imponente e come dire impattante, c'è un enorme arco passante a sesto acuto che lo attraversa. Allora, l'effetto visivo è stranissimo, perché hai questo campanile gigantesco perforato. La vera funzione di questo arco passante non si è mai ben capita, la struttura della piazza aveva una forma diversa e quindi permetteva il passaggio, e soprattutto c'è il fatto che sia a sesto acuto che lo rende una cosa non anomala per il momento, per il tempo in cui è stato costruito. Quindi l'insieme dell'esterno di questa cattedrale, per usare un'espressione buffa, fa una gran scena, perché è, abbiamo detto, di grande potenza strutturale, ed è di grande impatto. Anche per questo motivo, quando varchi il portone, il meraviglioso portone, ed entri nella chiesa superiore, sei un po' stupito dall'atmosfera nella quale ti trovi, perché anche l'interno è perfettamente romanico. Tre navate, un'infilata di colonne doppie che sorreggono i matronei, le volte a crociera per le navate laterali e delle meravigliose capriate a vista per la navata centrale. E non c'è altro, nel senso che è una chiesa nitida, pulita, tutta di pietra, e non ha nulla che distragga, che tolga essenzialità, che tolga misticismo, che tolga astrazione. Immersa nella penombra, la navata centrale di fatto è percorsa solo dalla luce che arriva dal grande finestrone che è nell'abside. È una vera e propria lama che attraversa la chiesa, che attraversa la navata, e che simbolicamente racconta di un cammino in direzione della divinità che la struttura della cattedrale riesce effettivamente a far fare al visitatore. Quando entri non ti viene in mente altro se non di percorrerla in silenzio, facendoti accompagnare dal passo delle colonne e dal respiro del soffitto, che è altissimo, abbiamo detto. E secondo me ha una struttura talmente bella, talmente pura in termini stilistici, che parla da sola, non ha bisogno di spiegazioni o di guide.